noi siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per pure degli automobilisti, dei minutipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Non è profondo il mare, non è profondo il mare. Padre, è un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Non è profondo il mare, non è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci annegare. Profondo il mare, è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni, quillati i vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere a urlare solo in mezzo al mare. Non è profondo il mare, solo in mezzo al mare. Oh, yeah. Solo in mezzo al mare, non è profondo il mare, solo in mezzo al mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Non è profondo il mare, non è profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compreso quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un aviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti i belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, e si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. È profondo il mare, è profondo il mare. Fra tanti pesci dai quali discendiamo tutti, assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che indubbiamente doveva sembrare cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare. È profondo il mare, il loro grande mare. Pensiero da fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, è profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, così stanno bruciando il mare. Così stanno uccidendo il mare, così stanno piegando il mare. Così stanno bruciando il mare, così stanno umiliando.